24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza. L'hanno chiamato, così pare, l'Italicum. Non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere. L'Italicum, vi rendete conto? L'Italicum, così pare. È l'accordo Renzi-Berlusconi per la riforma elettorale. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. E vabbè, così forse abbiamo l'Italicum. Si apre oggi, cari italiani, la 38esima settimana decisiva per la riforma elettorale. E parola di Matteo Renzi, non mia, parola di Matteo Renzi che me l'ha scritto in un tweet, mi ha risposto personalmente 10 giorni fa, è la settimana decisiva. Giuro, è parola di Renzi, non lo dico io. Comunque, questa è 24 mattino, invece, è il quinto giorno decisivo senza sole a Milano, piove. E saluto Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, e possiamo aprire il nostro Parlamento, dove qui di riforma elettorale, se volete, si parla. Che dobbiamo fare? C'è Nicole, come sempre. E voglio salutare anche un grande ritorno. Sono contento di avere Mario Giordano, il direttore di Video News, anche editorialista di Libero. Buongiorno direttore, come va? Buongiorno a tutti. Va bene, dai. C'è l'Italicum, pronto, lo champagne è pronto oggi. Assolutamente sì, cambia tutto adesso. Adesso sì. Sembra più il Porcellinicum più che l'Italicum. Perché alla fine poi sono rientrate tutte. Ne parleremo. Repubblica lo chiama, Repubblica, il condannatellum. C'è anche il condannatellum. C'è la vicenda Berlusconi, si sa. Direttore, saluto anche Carlo Rienzi, il fondatore del Codacons. Come va, Rienzi? Eccoci qua. Salve, bene, a parte il maltempo, le frane, insomma, i treni che deragliano, Una serie di disgrazie, a parte le disgrazie, tutto a posto. Allora, dobbiamo parlare di questo accordo, perché tutti i giornali. Intanto una domanda a un direttore anche che insomma di giornali se ne intende, anche se più di TV, però scrive anche molto sui giornali. Ma 9 o 10 pagine ogni giorno, e siamo al secondo giorno consecutivo, su questa vicenda Renzi-Berlusconi. Non è un pochino troppo, caro Giordano? Diciamo, dal punto di vista politico è sicuramente un incontro storico. Io credo che, come ancora oggi si racconta la visita di D'Alema a Mediaset o alcuni episodi, fra 10 anni si parlerà ancora dal punto di vista politico di questo incontro, e sicuramente cambierà gli assetti. Certo che 10 pagine, io voglio trovare uno che oggi le legga tutte. Ecco, appunto, magari neanche al direttore che le ha pubblicate. Probabilmente no, perché insomma è un po' una tortura, anche perché poi si scende nel retroscena, del retroscena, del retroscena, del retroscena. È chiaro. C'erano tipo ieri una pagina, ho letto sul Corriere di Roncone, che è bravissima a scrivere, una pagina intera sull'incontro, il faccia a faccia Renzi Berlusconi, ma mica era lì, Cioè, così si prendono dei particolari, si chiama qualche fonte e poi si scrive una bella pagina, così. Il racconto, il divano dove ha seduto, sì, Che Guevara, Che Guevara, Kennedy, la battuta, la scala, chi era davanti e chi era dietro, particolari fondamentali per fondamentale. L'Italicum, devo dire che oggi almeno il Corriere della Sera spiega che cos'è questo Italicum, cioè lo pubblico o è Repubblica, tante volte, lo spiegano un po' tutti. Io ho visto che con Cazzullo gli dà già una prima piccola botta, perché insomma, come accennavo prima, non è che poi sia cambiato, cioè mi sembra che si sia fatto un po' un santino di questa legge elettorale. Sì, è più importante l'accordo in sé che l'oggetto dell'accordo. Sì. È più importante il fatto che si siano seduti insieme e che si sblocchi su questa cosa. Non mi sembra che questo cambiamento della legge elettorale sia epocale. Anche perché siamo stati settimane a parlare di modello spagnolo, adesso salta fuori l'Italicum, che mi sembra così a vista abbia tutti i difetti dell'altro. Sì, la botta che dà Cazzullo è sulla questione delle preferenze, ma Renzi sulle preferenze non ci sente, ha detto non torneremo mica alla prima repubblica ora che stiamo entrando nella terza. E quindi questa cosa delle preferenze, che sembrava la cosa che gli italiani pensavano più importante, cioè dire ma come possiamo votare nome e cognome, invece no, è questa cosa. Però delle preferenze. Anche lì preferenze per anni siamo andati, ricordi che le preferenze erano la fucina di tutti i mali, perché certo, c'erano le preferenze, la mafia eccetera. Poi adesso, dopo le abbiamo abolite, senza preferenze non si può andare avanti. Dipende, come dico, si costruiscono dei santini. In realtà io credo che se tutto va bene una legge elettorale riesce a dare un governo stabile, ma non è detto che riesca a dare un buon governo. No, ma è chiaro. Non basta una legge elettorale. La cosa importante è che dia un governo almeno stabile, una maggioranza certa. Ma io vorrei chiedere a Carlo Renzi, da uomo di sinistra, qual è? Posso dirlo? Da uomo di sinistra? Il fatto è una definizione un po' strana. No, vabbè, così mi sono buttato in questa. Ho teso il trappolone. Renzi che incontra Berlusconi, che tipo di considerazioni fa fare a Carlo Renzi? No, perché c'è tutta la sinistra. Ah, no, su questo io sono. Chi se ne frega? Sarò proprio perentorio. Prima, secondo me, era logico e ovvio che fosse fatto, perché una persona che ha avuto tanti milioni di voti e probabilmente li riavrà, vuol dire che una parte degli italiani vogliono che li rappresenti, e quindi se le cose si devono fare, riforme di questo tipo non si possono fare se non con tutti quelli che hanno una rappresentanza degli italiani, quindi il primo punto. Tutte queste pagine sui giornali sono sprecate, secondo me le pagine devono essere dedicate a che cosa? Al fatto che l'Italia frana dappertutto, che soltanto togliendo gli indennizi ai consiglieri regionali si potrebbe rimettere in sesto il territorio italiano ed evitare che i treni deraglino e cadano nel mare ammazzando la gente. E terzo, probabilmente, di cui nessuno parla, è che è assurdo che arrivi una cartella di Equitalia dopo 9 anni per una multa per il cane che andava senza guinzaglio. Questo dove è successo? Che i giornali si dovrebbero interessare di queste cose. E questo dove è successo? L'incontro bastava un trafiletto. Addirittura un trafiletto, dai, è una cosa, cioè pare un accordo storico, politico, adesso un trafiletto. Non esageriamo dall'altra parte, Renzi. No, l'incontro in sé, il trafiletto. Poi la sostanza, il contenuto che verrà messo a disposizione di tutti gli altri partiti è importante, va descritto e spiegato, ma appunto pagine intere per dire il divano, il colore delle scarpe, il colore della cravatta eccetera eccetera, è proprio ridicolo, cioè perché non si dovrebbero incontrare? È una riforma che riguarda tutti gli italiani, tutto il Parlamento, non soltanto la destra o la sinistra, quindi io sono di destra o di sinistra, non sono nulla, sono un difensore dei cittadini, penso che sia stata una cosa giusta, giustissima. Allora, vogliamo sentirlo Renzi, visto che dice sempre che è decisiva. A questo punto mettiamolo, il test da votare. Oggi c'è la direzione del partito. Chissà come lo accolgono, la direzione del partito, se vincerà la maggioranza sua o la minoranza di quelli che dicono alla Fassina, che tra poco sentiremo anche Fassina, mi sono vergognato di questo incontro. Renzi. Questo testo di legge che, per quello che ci riguarda, se nelle prossime ore saranno verificati con tutti i dettagli, potremo presentare e presenteremo, come da me espressamente annunciato, alla direzione, perché la direzione del PD voti. Vabbè. Lunedì alle 16. Lunedì, oggi è il giorno decisivo. Stiamo restringendo il campo, Giordano, dalla settimana decisiva stiamo arrivando al giorno decisivo. Alle 2 di oggi saranno le ore decisive di questo accordo. Il minuto decisivo, secondo decisivo. Vabbè, aspettiamo. Sì. Intanto Fassina, sentite un po' Fassina subito, c'ha il dentino un po' avvelenato. Devo dire con franchezza che come dirigente del PD mi sono un po' vergognato. Su questo colloquio non andava fatto, è un errore politico. Andavo ovviamente coinvolta Forza Italia. Berlusconi abbiamo votato in Parlamento, ha votato il Senato dopo una sentenza. E vabbè, insomma, non andava fatto questo incontro, rimaniamo sempre lì. Allora, vi faccio questa seconda domanda. Renzi un po' ha già risposto. Ma gli italiani saranno più preoccupati di questa cosa o del fatto che tra 10 giorni, caro Giordano, lo prevede la legge di stabilità, potrebbero aumentare le tasse, entro venerdì si paga la mini IMU? Non so, qual è la preoccupazione? Intanto posso dire una cosa, ma sì. Fassina che si scandalizzava era quello che stava al governo, che ha fatto il governo fino a qualche... Con Berlusconi, è lo stesso, sì. No, perché è una persona simpatica, però insomma vabbè. Ma gli italiani è ovvio che sono più preoccupati delle tasse, sono più preoccupati del paese che frana, come diceva prima Renzi, sono preoccupati del fatto che per pagare le tasse devono pure fare delle code umilianti, cosa che non si vede neanche solo in un paese incivile, sono preoccupati del fatto che nonostante grandi promesse di cambiamento non cambi più nulla, come abbiamo visto nella regione Lazio si continuano a dare le baby pensioni ai cinquantenni, con i capigruppo della regione Sicilia si sono aumentato lo stipendio di 1160 euro. Il parco dell'auto blu. 1160 euro al mese, cioè si sono dati lo stipendio di un operaio come aumento e l'operaio lavora, invece il capigruppo neanche quello, quindi è ovvio che gli italiani si preoccupano più di queste cose. È vero anche che le settimane decisive continuano a aumentare finché non si trova un sistema istituzionale in grado di far cambiare queste cose. Ora, se ci possa riuscire questo Italicum non lo so, però è anche è vero che finché non c'è un governo in grado di incidere, e questo governo ha dimostrato di non essere in grado di incidere, finché non si riesce a creare un governo in grado di incidere veramente le cose, è difficile immaginare che le cose cambino. Questo certamente. Renzi, però, che si deve fare per tutti questi sfollati? Cioè, perché dice basta non far pagare oggi? Stella e Rizzo tornano sull'editoriale del Corriere della Sera contro i consiglieri regionali che si prendono questo vitalizio. Perché dice basterebbe quelli per sistemare il territorio? Per forza, perché se si fanno le somme dei milioni di euro che si sono rubati i consigli regionali, ma non adesso, sono 10 anni che rubano con questi soldi dati ai partiti e spesi in spumante e panettoni. Se si fossero, noi abbiamo una causa come Codacons e devono restituire addirittura alla giunta Marrazzo questi soldi, è da allora che è sorto il problema, e poi tutto il resto, gli indennizi. Se si mettono insieme questi soldi si può mettere in sicurezza il territorio. Quindi è una cosa gravissima che non si riesca a limitare gli sprechi in questo paese, e si sprechino 3 pagine, 4 pagine di giornale non per scandalizzarsi perché l'Italia in Liguria è tutta franata, è un paese in frana. Io non capisco questo, ma se misurate lo spazio di quello che viene destinato a queste notizie rispetto all'incontro con Berlusconi, vi rendete conto di quello che è l'Italia, l'italiano, media. Se ne occupano, Giordano, ce ne occupiamo quando c'è l'emergenza, poi gli sfollati. No, posso dire, io ho iniziato il mio primo libro ormai quasi 20 anni fa, si chiamava Silenzio si ruba. Quindi credo che ci siamo scandalizzati, ci scandalizziamo e continueremo a scandalizzarci, ovviamente ne facciamo quasi una cosa professionale dello scandalo e della denuncia. Però è anche vero che non si può semplicemente solo sempre scandalizzarsi e denunciare. Io sono d'accordo, l'ho detto prima, che le 10 pagine sul colore dei calzini che aveva Renzi durante l'incontro con Berlusconi sono inutili, ma bisogna anche riuscire a trovare il modo di cambiare, perché altrimenti semplicemente, costantemente, solo la costante denuncia non porta a null'altro la denuncia, perché quante volte le abbiamo fatte le denunce sull'Italia che frana? Quante volte abbiamo ripetuto le stesse cose? Si riesce a trovare il modo di incidere e di fare in modo che queste cose non accadano più. Te la spiego, Giordano. Tra qualche giorno il Consiglio di Stato deciderà una class action del Codacons con la quale noi chiediamo di ordinare al governo e alla protezione civile di destinare delle somme che siano sufficienti, che abbiamo individuato in quali capitoli di bilancio sono, alla messa in sicurezza del territorio. Quindi noi non facciamo chiacchiere, cerchiamo ovviamente per quello che possiamo, perché non è che abbiamo il potere, non siamo né un partito né il Presidente della Repubblica, di rivolgersi a volte ai giudici, ai giudici amministrativi, con gli strumenti forti che abbiamo. I giudici. Ho capito, ma che dobbiamo fare? Allora, quello non va bene. No, che vogliamo fare? Io credo che no, per l'amore del cielo, io sono spaventato dall'intromissione dei giudici che ordinano. Ma pure io sono spaventato, ma non il menù che devo mangiare a cena, tra un po' faranno una sentenza anche se che cosa si mangia a cena e che cosa non si mangia a cena, qual è la formazione della scuola di calcio, ma questo è diverso il problema. In ogni cosa può essere una situazione, una soluzione d'emergenza, un'iniziativa meritoria, però ma ripeto, o si cambia il modo di governare alla base, alla radice, quindi quei contributi del Consiglio regionale vengono aboliti non con una sentenza del Tribunale, ma con una decisione definitiva di cambiamento istituzionale. Questo bisogna riuscire altrimenti a no, ma è chiaro. Tanto c'è quell'immagine sempre di quel treno sospeso, mannaggia, che fa veramente impressione, quel treno che stava per cadere in mare in Liguria. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo. 24 mattino. Caro Mila, posso chiederti qual è il popolo più stupido dell'universo? Te lo dico io, l'italiano. Tutti si prendono beffa di noi, ci tengono i due marò e noi non facciamo niente. Milan, volevo dirti che sei un grande, sei un mito, continua così, sei tutti noi. Ma Forchielli che fine ha fatto? Forchielli, ci vuole Forchielli. Buongiorno Milan, oggi è venerdì 17, piove, una giornata di merda e c'è anche a Vinosi. Onorevole Cera, si vuole incatenare? Io avrei un'altra idea per tutti voi, cari politici, anziché di incatenarvi, dateci a noi l'onore di impalarvi. Milan, dillo a tutti, smettiamo di mandare soldi a Roma, altrimenti questi non smettono. Devono trovarsi senza soldi in tasca, devono trovarsi senza soldi nelle casse. Volevo dire ai sindaci della piana di Gioia Tauro, che chiacchierano tanto, ma quando caricavano le navi di rifiuti tossici per l'Africa, dove erano loro? Ma senti un po', ma per un cavillo burocratico si può scarcerare un delinquente che ha fatto 72 operazioni a povera gente che non ne aveva bisogno? Siamo un paese di merda, con un governo di merda, non c'è salvezza, non c'è niente da fare. Ciao scherzoso menestrello della mattina. Ma chi? Non so, sono io forse. Non lo so, sono io Giordano, il menestrello, no. Sei te direttore forse, non lo so. Vabbè. Sono menestrello della mattina. Comunque, la gente è così, è una giornata di sì, e sono tutti molto allegri, devo dire. Domani ho un grande domani torna forse Forchielli, Alberto Forchielli, domani mattina alle 6:30. Giordano, qui che dobbiamo dire? Insomma, la politica l'abbiamo detta, Fassina si lamenta, la situazione ligure qua davanti al secolo XIX, soprattutto in Liguria, è un disastro. No, io ho trovato questo, voi lo sapete che c'era questa storia del forse il contratto per fare sesso dell'ex assessore abruzzese. Repubblica lo pubblica, l'ha trovato, ecco, sembrava finto, mi obbligava a fare sesso, ecco il contratto hard, 3.000 euro al mese per fare l'amore con regalo. In realtà pare che sia una vicenda anche più terribile, cioè questa segretaria pare abbia fatto tutto dicendo mi ha puntato anche la pistola una volta, era ossessionato, cioè pare che sia una storia anche dai risvolti drammatici. Recuperata nel cestino e consegnata agli inquirenti insieme all'assegno. Sì. È un'altra bella storia, perché ci mancava questa. Non fate finta di scandalizzarvi, perché a fronte di un contratto scritto di questo genere sono 1.000 orari. Ma è una parola orale, di contratti. Si riferiva ai contratti verbali. Però non è un dettaglio da poco il fatto di passare, ha ragione Rienzi, che probabilmente ce ne sono tantissimi, ma mettere addirittura per iscritto è un segno di una spudoratezza che raggiunge livelli paradossali. Perché dice era ossessionato da me, e allora gli ho detto: allora adesso me lo metti per iscritto. Lui l'ha messo per iscritto, poi ha firmato e poi l'ha stracciato subito, rendendosi conto. E la segretaria ha recuperato dalla spazzatura per poi in qualche modo incastrarlo. Ecco, questo è. Vabbè, ma chi cazzo, ma servirà a niente al processo questa cosa? No? Evidentemente la ringa di Rienzi al processo. Ma che cazzo è stato? Non scritto. Questa avete assistito alla ringa dell'avvocato difensore. Voi in queste trappole. Avete assistito alla ringa difensiva di Rienzi in tribunale. Ma signor Giorgio, ma che. Ecco, questo è. Vabbè, Giordano, ci vuole lasciare con un pensiero del giorno, in questo giorno decisivo che dobbiamo chiudere? E speriamo almeno che smetta di piovere. Speriamo questo, io l'ho detto. Ci sono bambini di 3 anni che a Milano non sanno dell'esistenza del sole e del cielo blu, ma adesso li porteremo al planetario e glielo facciamo vedere. Grazie. Grazie, buona giornata. Grazie. Rienzi, dove sta? È tutto. C'è il sole. Sono bambini di 3 anni che vengono bruciati vivi nelle macchine. Ah, in vabbè, Calabria. Sì, quella è una tragedia. No, e da questa partirò proprio in rassegna stampa. No. Hanno dedicato pagine ai giornali a questa vicenda davvero drammatica e la ricorderò, la leggerò tra poco in rassegna stampa. Ora il giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci alle 7:17 minuti, cari ascoltatori. Forza, il quinto giorno di pioggia a Milano. I bambini non conoscono più l'esistenza del sole, inteso come quella roba là, quella stella là. E pazienza, lo schema Allegri vale sempre. Dai, avanti. E allora vi ricordo che oggi avremo ospite il presidente della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti. Cercheremo di capire questa vicenda delle navi che arriveranno dalla Siria cariche di sostanze tossiche e l'arsenale siriano che è stato smantellato. Faranno una tappa al porto di Gioia Tauro, come ha annunciato il governo, e capiremo la regione Calabria come si appresta a vivere questa cosa. Poi sapete che puntuale ogni anno arriva, stavolta in sordina, nessuno ne ha parlato, la vicenda del condono delle liste elettorali abusive da parte dei partiti. Anche quest'anno è arrivata, c'è un emendamento che è stato scovato nel mille proroghe che prevede le multe, la sanatoria per le multe ai partiti che hanno affisso abusivamente i cartelli in campagna elettorale. È un gran classico e quest'anno poteva mancare? No, anche quest'anno arriva. Ne parleremo alle 8:30, ora andiamo a leggere i giornali. È lunedì 20 gennaio, i titoli intanto, il Sole 24 Ore ha questa scadenza di venerdì prossimo, non buona, ve lo dico subito cari italiani, a giudicare dal titolo di prima pagina, IMU e TARES, il venerdì nero della casa, calcoli complessi per determinare la mini IMU, tra 5 giorni la scadenza doppia in migliaia di comuni. Poi la politica, ovviamente, con l'incontro Renzi e Berlusconi tiene banco un po' ovunque per 9-10 pagine sui quotidiani, e notare il tono con cui lo riferisco. Riforme, ostacoli finali all'intesa, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica, legge elettorale, la mossa di Renzi. La Stampa, Renzi, avvertimento ad Alfano, i piccoli partiti dicano sì alla legge elettorale o andiamo avanti da soli. L'Unità battaglia sulle liste bloccate. Il Messaggero, Renzi sfida il PD, Alfano apre. Il Giornale invece ce l'ha contro i rosiconi, coloro che hanno criticato l'accordo Renzi-Berlusconi, coloro che vogliono fermare l'Italia. Ci sono un po' tutti, Grillo, Cicchitto, L'Annunziata, Cuperlo, Alfano, Fassina, Salvini, Scalfari. Questa è una foto di prima pagina. Mentre il Secolo XIX apre comprensibilmente sulla Liguria sott'acqua, disperso sotto il diluvio. Questo è il titolo di prima pagina. Ma io voglio partire da alcune notizie che trovate sui giornali. La prima è: ricordate quella vicenda dell'assessore ex abruzzese che è stato poi arrestato, l'assessore De Fanis, e il presunto contratto per fare sesso con la segretaria, una vicenda che ha fatto il giro del mondo? Ebbene, Repubblica a pagina 21 ha recuperato quel foglio. Mi obbligava a fare sesso, ecco il contratto hard tra l'assessore e la segretaria. Giuseppe Caporale da Pescara. Sembrava una storia incredibile, quasi impossibile, invece eccolo il contratto sessuale stipulato dentro la sede della Regione Abruzzo tra l'assessore alla cultura Luigi De Fanis e la sua segretaria. 9 righe scritte a mano su un foglietto giallo di 13 centimetri. Io sottoscritto, Luigi De Fanis, si legge nel documento poi strappato dallo stesso politico e ricomposto dagli agenti del corpo forestale. Nuovo accordo per novembre, do 3.000 euro per amore con regalo. Questo è ciò che rimane di quel foglietto insieme al documento. C'è però la testimonianza della segretaria, la segretaria che dice: lui era talmente tanto ossessionato da me, un giorno ha anche buttato a terra i computer in ufficio, ha fatto un macello, così ha messo a verbale. Allora a un certo punto io entro da lui, lui mi fa un foglio, mi chiama e mi dice: senti, mo ti faccio un contratto, se tu 4 volte al mese stai con me ti do 3.000 euro al mese. Allora io, sentendo questa cosa, gli dico: scusa, me la scrivi per favore, voglio il contratto scritto, hai detto questa cosa, adesso scrivimela. E lui me l'ha scritta e mi ha fatto l'assegno. Gli ho detto: adesso firmalo, è un contratto, me lo devi firmare. E dopo questo, cioè dopo la firma, lui si è reso conto che io avrei fatto qualcosa e lo ha strappato, l'ha buttato nell'immondizia. Ma io vado via e chiamo l'altra segretaria e dico: Concetta, per favore, mettimi da parte l'immondizia dell'assessore, perché ha strappato una cosa e gli serve domani, la devo riprendere, perché ha sbagliato, lo ha strappata, ma gli serve ancora. E allora il giorno dopo vado in ufficio e ricompongo questo foglio con relativo assegno che mi aveva fatto. Dunque, dalla testimonianza della segretaria, che poi parla di minacce, mi puntò una volta addirittura la pistola in viso. A un certo punto, addirittura, racconta la segretaria, voleva uccidere la moglie. Nella sua mente malata decide che l'unico modo per potersi liberare della moglie era liberarsi proprio di lei, fisicamente. Una volta parla al telefono, non so con chi, e vengo a sapere il suo vero intento: riscuotere l'assicurazione che poco prima aveva aumentato la moglie, perché lui era senza soldi e avevano scoperto in banca, non lo so, se di 70.000 euro. Beh, insomma, questa vicenda, che era partita come una vicenda quasi così da feuilleton e goliardica e pruriginosa, e diventa una faccenda anche, almeno al racconto della segretaria, davvero criminale, e una vicenda terribile di cronaca nera, se si parla di ossessione, se si parla di pistola puntata al viso e se si parla addirittura dell'intento di uccidere la moglie da parte dell'ex assessore. Però insomma, questa è una versione che comunque è su Repubblica e la trovate lì. Io poi vi voglio segnalare la vicenda del caso Stamina, sul quale ci sono quotidiani come La Stampa che da giorni insiste per raccogliere le testimonianze anche contro il cosiddetto metodo Vannoni. Beh, oggi ci sono due o tre articoli molto molto interessanti che vi voglio segnalare, perché Elena Cattaneo, senatrice a vita nonché scienziata, insieme a Gilberto Corbellini e Michele De Luca, tre scienziati, prendono carta e penna e scrivono una lettera lunga, appassionata, alla Stampa, che La Stampa pubblica a pagina 10, un'intera pagina, contro il programma Le Iene. Perché Le Iene ha fatto, è stato forse il primo programma che ha acceso i riflettori, ha acceso la luce sulla vicenda Vannoni. Le Iene si difendono, un'intera pagina, dunque lo stesso spazio, pagina 11, con la difesa di Davide Parenti, l'autore delle Iene. L'accusa degli scienziati è sul caso Stamina, irresponsabili i servizi delle Iene. Caro direttore, scrivono Elena Cattaneo, Gilberto Corbellini e Michele De Luca, la libertà di stampa è un valore non negoziabile, ma proprio per questo, cioè per proteggerla, chi ne abusa causando danni a persone andrebbe responsabilizzato dalla legge. Un esempio eclatante di irresponsabilità nella pratica della libertà di informazione è stato fatto nei mesi scorsi dal programma televisivo Le Iene, che interpretando al peggio la filosofia situazionista che mescola finzione e realtà, ha asserito circostanze insussistenti per manipolare e spettacolarizzare le sofferenze di malati e parenti. Viceversa, i fatti provati che condannano Stamina sono stati trasfigurati, sono stati letteralmente ribaltati e proposti come una dimostrazione della falsa propaganda del potere costituito, di non meglio precisati interessi di potenti multinazionali. In quanto tali, gli eroici giornalisti delle Iene li contrastavano e per farlo hanno condito il tutto con impressioni, sensazioni mosse dalle più viscerali e irrazionali emozioni. Si dovevano usare per far questo bambini malati? Si usavano. Tra le testimonianze pubblicate in questi giorni, che danno conto dell'incredibile calvario offerto da Stamina a famiglie disperate in cambio di numerose decine di migliaia di euro, non è insolito leggere espressioni come «avevamo visto questo programma, le Iene». Insomma, inizia così la lettera alla quale Davide Parenti risponde: caro direttore, in difesa, la nostra unica colpa è esserci appassionati a storie di gravi malattie. È finalmente arrivato dalla scienza, scrive Parenti, un'inconfutabile certezza. È tutta colpa delle Iene, da intimidire, processare, condannare, mandare a rogo, a cui togliere qualsiasi libertà di stampa. Domanda: esiste una legge dello Stato che consente di somministrare terapie non sperimentate scientificamente a chi soffre di spietate malattie, a cui non è offerta dalla medicina alcuna cura sperimentale come si deve? Esiste, ma a leggere i tre scienziati si potrebbe concludere che è tutta colpa delle Iene. Esiste un eccellente ospedale pubblico dove le istituzioni pubbliche competenti, la dirigenza dell'ospedale di Brescia, la regione Lombardia, l'agenzia del farmaco, hanno deciso e sapendolo non hanno impedito che entrasse in tanto discusso metodo Stamina del plurindagato Davide Vannoni? Non c'è dubbio, è proprio andata così, ma sorvoliamo, è tutta colpa delle Iene. Di fronte alle violente accuse della scienziata Elena Cattaneo, qualcuno dovrebbe provare a osservare timidamente che fino a quel momento le Iene non si erano ancora mai occupate di questa pasticciata storia della sanità pubblica, iniziata in un ospedale pubblico a Brescia nel 2011. Ma non importa, non è il caso di essere troppo scientifici. Ribadiamo e andiamo avanti. È tutta colpa delle Iene. Insomma, questa è la difesa, ovviamente che poi continua un'intera pagina, però sono due pagine molto intense che vi segnalo, perché è un tema che anche noi abbiamo seguito, abbiamo avuto ospite Davide Vannoni un paio di volte. La senatrice Cattaneo, per la verità non contenta, fa anche sull'Unità un'intervista di mezza pagina. Dunque, insomma, è molto agguerrita su questo tema. Stamina, accuso le Iene, hanno aiutato una truffa. Intervistata da Yolanda Bufalini, la senatrice studiosa delle staminali, è proprio il suo tema di studio da anni, è tra i firmatari di questa lettera alla stampa e dice: già 3 anni fa il programma satirico fece un servizio analogo all'Italia, mostrando ipotetici paradisi terapeutici in Cina e Thailandia con l'offerta di presunte cure a base di staminali, diverse puntate in cui la sofferenza era accostata alla scoperta dell'acqua calda. Già allora i malati ci sommersero di mail e di telefonate, fu un calvario, ma interpellammo il programma e loro si fermarono. In questo caso, invece, nel caso Stamina, c'è una totale mancanza di deontologia. Le informazioni su Stamina, gliela assicuro, erano pubbliche al 100%, bastava cercarle. Le prime tracce di contatti tra Stamina e la multinazionale farmaceutica Medestea noi le abbiamo trovate a ottobre 2012. L'interesse commerciale è legittimo se il prodotto è efficace, ma qui si vendeva il nulla. Le Iene hanno promosso e fatto cassa di risonanza a tutto questo. Insomma, l'accusa di Elena Cattaneo è un'accusa molto molto dura e la trovate, ripeto, sull'Unità come intervista, sulla Stampa come lettera, e sulla Stampa c'è anche la risposta dell'autore, il capo autore delle Iene, Davide Parenti, che si difende. In ogni caso andiamo in pubblicità e poi ripartiremo dalle cose che più interessano gli italiani, che in questo momento stanno facendo colazione, e cioè la mini IMU, le tasse. No, l'Italicum. Arriva l'Italicum, la legge elettorale, l'accordo Renzi-Berlusconi. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qui, allora, la legge elettorale, siete pronti? Inizia oggi la 38esima settimana decisiva per la riforma elettorale. E a usare le parole di Matteo Renzi, che ripeto, 10 giorni fa mi ha risposto via Twitter, è la settimana decisiva, lo ha detto lui. D'altronde oggi alle 16 c'è stato l'incontro con Berlusconi e oggi alle 16 c'è la direzione del Partito Democratico in cui esporrà il senso di questo accordo. Se il partito reagirà in maniera approvando, in maniera più o meno compatta, anche se ovviamente i regionali raccontano già di qualche opposizione interna, c'è l'accordo, non è che c'è la legge elettorale, poi andrà fatta la legge elettorale, però insomma è un primo passo. È la settimana decisiva? Chi lo sa? La 38esima, certamente. Allora, intanto i giornali dedicano alcuni 9-10 pagine ancora a questo accordo. Per me è abbastanza inspiegabile questo racconto così dettagliato, in cui si raccontano per un'intera pagina i dettagli dell'incontro da parte di giornalisti che non erano presenti all'incontro, attraverso indiscrezioni. Comunque, l'ultima trattativa tra Renzi e Alfano è il nodo del premio, così titola pagina 2 il Corriere della Sera. Le telefonate ieri con i leader, i contatti con il Colle, oggi il testo alla direzione del PD, il nuovo centrodestra è pronto ad approvarlo. Tra l'altro racconta Mazio Breda nel retroscena del Quirinale, Napolitano chiede un'intesa ampia ma non contro la maggioranza, la situazione al Quirinale è questa, sono in tanti a giurare che a questo punto se Giorgio Napolitano benedice l'intesa siglata sabato tra Renzi e Berlusconi, allora è fatta. Ma magari fosse così semplice, scrive Breda, replicano al Quirinale, spiegando che sì, c'è un fatto nuovo molto importante, ma che il capo dello Stato non vuole e non deve benedire o maledire niente o nessuno. La sensazione è che Matteo Renzi debba giocarsi la partita soprattutto all'interno del proprio partito, convinti anche gli scettici al dovere di incontrare Berlusconi. Ora però ci sono le reazioni all'incontro con Berlusconi. Le reazioni sono molte. Ieri Renzi è andato a incontrare anche Bersani in ospedale. Come scrive Giovanni Cerruti sulla Stampa, come scrivono tutti i resoconti, non è andata benissimo. Bersani non fa sconti al segretario. La sintonia devi averla col partito. La visita in ospedale con la Stampa che scrive poteva andar meglio, magari un'altra profonda sintonia, e questa volta con Pierluigi Bersani, l'illustre infermo che può ancora muovere umori e malumori. E invece dopo quasi un'ora su nella stanza al quarto piano dell'ospedale maggiore è appena un buon lavoro Matteo. Insomma, in modo un po' gelido, Bersani pare che abbia disapprovato l'incontro tra Renzi e Berlusconi e quindi questo tentativo di accordo. Il retroscena del Corriere della Sera è esemplificativo di come la pone Matteo Renzi, cioè il titolo, la corsa del sindaco, non mi fermeranno gli ultimi giapponesi, cioè coloro che nell'immaginario collettivo hanno continuato a combattere anche a guerra finita. Il segretario fa muro sulle preferenze, non si torna alla prima repubblica, ed è questo un tema di dibattito tecnico sulla legge elettorale, cioè nell'accordo con Berlusconi non si torna alle preferenze, come si diceva, ma questo porcellum che non fa votare nome e cognome degli eletti. Ebbene, Matteo Renzi propone un nuovo sistema che però non punta a tornare alle preferenze, perché sono cose da prima repubblica, fa sapere Renzi, mentre noi stiamo entrando nella terza repubblica. E poi dice non mi farò fermare dagli ultimi giapponesi. Chi sono questi ultimi giapponesi? Quelli che il giornale mette in prima pagina con il titolo I rosiconi. Chi vuol fermare l'Italia? Chi è contro questo accordo? Beh, la Stampa li scrive, la minoranza del PD pronta a dare battaglia. Per esempio D'Alema ha detto Renzi deve cercare di unire il PD, non ceda alla tentazione elitaria. mentre Fassina è stato ancora più esplicito, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio e anche alle 6:30. Mi sono vergognato di quell'incontro tra Renzi e Berlusconi. E poi chi? Beh certo, Bersani, i bersaniani, insomma sono questi i cosiddetti giapponesi, coloro che si opporranno fino all'ultimo. E poi c'è Gianni Cuperlo, presidente del PD, d'Alemiano, il quale in un'intervista ad Andrea Carugati sulla Stampa, pagina 5, dice: se si vuole ragionare di vera modifica del Porcellum è irrinunciabile che i cittadini tornino a scegliere i loro rappresentanti. Questo si ottiene solo con collegi uninominali o con le preferenze. Non è un dettaglio tecnico ma un punto politico fondamentale. È la condizione per ricostruire un legame di fiducia tra gli elettori e il sistema politico. Insomma, Cooper lo dice, contro le liste bloccate sarà battaglia dura. Staremo a vedere oggi alle 16 anche per Repubblica gli irriducibili del PD pronti alla battaglia. Bersani dice ci vuole rispetto per la nostra gente, questo nell'incontro con Renzi. Intanto, se volete vedere tutti i dettagli di quello che è poi il succo di questo incontro, cioè di che stiamo parlando, vale a dire il senso della nuova legge elettorale, Maria Antonietta Calabrò sul Corriere della Sera racconta in uno schema anche abbastanza dettagliato, anche preciso, che cosa significa il nuovo sistema elettorale. A chi vince il 55% dei seggi, ecco l'Italicum, il premio di maggioranza assegnato a livello nazionale a entrambe le Camere, liste bloccate di 4-6 candidati, mini collegi e garanzie per i piccoli partiti. Se volete, tutti i dettagli sono lì. A proposito di politica, oggi vi segnalo che tornano sulla questione dei vitalizi regionali Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo. In prima pagina del Corriere l'editoriale è: un'ingiustizia da cancellare, i vitalizi dei consiglieri regionali. Scrivono Rizzo e Stella prendendo spunto dall'ultima vicenda che abbiamo letto anche 2 giorni fa dalla Regione Lazio. Possiamo accettare 2 decenni dopo la riforma Dini che un deputato regionale di 50 anni, l'età di Brad Pitt e Monica Bellucci, vada in pensione dopo una legislatura monca di un triennio, prendendo il doppio di un operaio inchiodato 42 anni e un mese in fabbrica? È un insulto e non ci si dica che cosa fatta a capo A e si tratta di diritti acquisiti. Al Consiglio regionale del Lazio, grazie a un cavillo maligno passato in Parlamento, hanno lasciato tutto come prima, ignorando il decreto Monti che vietava vitalizi prima dei 66 anni e con meno di 2 legislature. E allora, per avere il vitalizio a 50 anni, l'ex assessore Marco Mattei versò in tutto 60.000 euro. Dalla fine di ottobre 2013 ne prende 2.467 netti al mese. Dal novembre 2015 sarà dunque vita natural durante a carico delle pubbliche casse e se vivrà come un italiano medio, 79,5 anni, auguri, riscuoterà grazie a un aumento al 55esimo compleanno 1.084.988 euro, 18 volte quanto versato. I cittadini si sono trovati alle prese con la quota 102, 60 anni di età e 42 di lavoro, o quota 104, lui fa marameo da quota 55. A Isabella Rauti, Alemanno, andrà ancora meglio: per riprendersi i contributi pagati le basteranno 23 mesi e con l'aspettativa di vita delle donne, 84,5 anni, auguri bis, prenderà alla fine 1.128.198 euro, 19 volte il versato. Quanto a Lilia Dottavi, subentrata legislatura in corso, alla pensione dopo essere rimasta in consiglio 1 anno, neanche investire in cocaina le avrebbe fruttato di più, scrivono Rizzo e Stella. Tema: come possono i cittadini esposti da anni a tagli che hanno intaccato pesantemente quelli che credevano fossero diritti acquisiti rassegnarsi ora alla intoccabilità di quei trattamenti squilibrati e così offensivi nei loro confronti? Per questo, se vogliono far pace con gli italiani, quanti a responsabilità di governo in partiti, regioni, devono farsi carico di una svolta subito? Cosa c'è di più ragionevole in questi anni di crisi che abolire un'offensiva ingiustizia? Questo è l'appello che Rizzo e Stella fanno dalle prime pagine del Corriere, chissà se sarà accolto. Oh, inizia una bella settimana, voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Buongiorno. È finita anche benissimo, benissimo, benissimo. Per chi si appassiona a sport minori come il calcio, ah, e inizia. Ah, sì, fino a dopo una domanda da farti. Sì, benissimo. Inizia la, una settimana del venerdì nero. La Via Crucis, per... oh, la Via Crucis la... anticipata. Abbiamo... Insomma, sì, diciamo che da qui a venerdì bisognerà pagare questa minimu e c'è anche la quota della tassa rifiuti, si chiama. Si chiamava Tare, Sotia, o insomma c'ha sei nomi diversi, ma lo spiega Gianni Trovati oggi sul Sole 24 Ore, e, però non in tutti i comuni, non in tutti i comuni la minimo, non in tutti i comuni la, la Tares da saldare, quindi insomma un discreto pasticcio, anzi toglierei anche il vabbè discreto. Ma sul Sole 24 Ore poi ci sono tutti i dettagli su chi paga ci e chi sono non i dettagli, e naturalmente sul sito c'è anche il modo di calcolarsi quanto bisogna pagare della minimo, mentre per la parte dei rifiuti bisogna aspettare il bollettino del comune. Volevo segnalarti, parlavi di regione, vitalizio delle regioni, anche la sagacia di investimento, la sagacia operativa delle società partecipate dalle regioni, che come spieghiamo nelle pagine 4 e 5, parliamo delle società partecipate delle regioni e dei comuni, bene, segnaliamo appunto la quantità delle società in perdita, che non è assolutamente trascurabile. Chi l'avrebbe mai detto? Lo so, non è una sorpresa, però vederlo scritto che insomma 4 su 10 chiudono in passivo non è una bella cosa, c'è chi vende dei fiori, c'è chi fa attività di bagnino, però come dire, le prospettive economiche non sono positive. Peccato, perché con tutti questi soldi che devono pagare in pensioni, insomma, esatto, avremmo piacere, ne avremmo bisogno. Esatto. Che mi dovevi chiedere? Che mi dovevi chiedere? No, sono curioso adesso. No, te lo chiedo dopo. Una storiellina carina, 30 milioni incagliati dal contributo dei costi di giustizia, il contributo unificato. Noi oggi abbiamo una guida che illustra quanto si paga per andare a litigare, per andare in lite, per andare a fare una mediazione, andare in causa, e c'è una guida in 4 pagine. Ma Antonello Cherchi, che si è occupato anche di questa guida, ci segnala che i giudici starebbero ancora aspettando dal Ministero dell'Economia una trentina di milioncini che sono stati pagati da noi cittadini, ma il Ministero non ha ancora girato. Non risulta, al Ministero non risulta. Se li, no, no, gli risultano, sì, ma se li tengono, certo. Cioè, così sembra di capire, per carità, poi noi sempre scriviamo con la così con la voglia di essere smentiti spesso. No, no, ma è chiaro. No, volevo chiederti, ma questo tiro libero che ha fatto Balotelli, che cos'è, come si chiama? Perché è una cosa che non... Il Rigorelli, stai parlando del Rigorelli? Sì, ecco, il, ma netto, è una... il netto e indiscutibile rigore. Sì. No, no, ma io non stavo discutendo dell'assist di Bergonzi. No, stavi discutendo. No, no, no, dicevo come si chiama, perché si chiama Rigorelli. È il rigore di Balotelli. Che... Non l'ho visto proprio da tempo. No, è che fa rima, che fa rima con Antonelli. Rigorelli, sì. Antonelli, fa rima. Tutti i Nelli. Ieri la giornata esiste però nel calcio questa cosa qua. Nel pomeriggio Antonelli e alla sera Rigorelli. Va bene? Ho capito, va bene. Dai, Mauro, ci troviamo domani, incombe. Sì, studio la minimo, va bene, entro venerdì. Andiamo alle informazioni sul traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, a proposito di tasse, visto che anche Repubblica si concentra dagli esami medici ai mutui stangata sulle spese detraibili, si cerca di esentare i redditi bassi, cioè mancano 10 giorni, e poi come previsto dalla legge di stabilità potrebbero essere aumentate le tasse, e questa è una notiziola che finisce dopo le 10 pagine dedicate all'accordo Renzi-Berlusconi. C'è un'intervista che Roberto Mania su Repubblica fa al responsabile dei Tea Party del Veneto. Il sistema dei Tea Party, il movimento dei Tea Party viene dall'America, Tea per Taxed Enough Already, cioè già abbastanza tassati. Le prime prove di disobbedienza fiscale, sentite cosa dice il responsabile del Tea Party Veneto, Carlo Sandrin: basta con le ingerenze italiane, non ne possiamo più, ci siamo rotti i coglioni. Ecco, l'esordio dell'intervista è così, molto pacato. L'obiettivo è non pagare le tasse e poi ricorrere al ravvedimento operoso. Questa è la battaglia fiscale che lancio: togliere l'acqua allo Stato centrale, metterlo a secco, costringerlo a ridurre le spese, licenziando anche i dipendenti pubblici. L'obiettivo: non fare affluire a Roma 60 milioni di tasse l'anno. Questa disobbedienza fiscale che riporta le parole d'ordine della Liga Veneta Dantan, una protesta quasi legalizzata, dice Sandrin. Ci sono già 6.000 adesioni di protesta. In realtà, scrive Repubblica, è assai probabile che la protesta si affloschi, finisca derubricata in una velleitaria provocazione, ma si vedrà. Sandrin ci parla dagli Stati Uniti, dove ha incontrato i rappresentanti dell'originale Tea Party americano. Sostiene che il suo movimento, non un partito, stia raccogliendo migliaia di adesioni proprio in questi giorni di ingorgo e caos fiscali, con scadenze di TARES, TASI, IMU e MINIMU. Staremo a vedere, ma certo la questione fiscale è molto molto calda in questo momento, altro che Italicum, o come lo chiama Repubblica, il condannatellum per l'incontro con Berlusconi. Siamo veramente alle comiche. Intanto molti giornali si dedicano ovviamente alla ennesima tragedia legata al maltempo, soprattutto al secolo XIX, disperso sotto il diluvio, racconta la storia di questo medico nato in Siria, che ieri è stato chiamato Elias Kassabji, è stato chiamato per un intervento, per un malore di una persona, è andato a trovarla e poi è stato inghiottito e disperso al momento da una bomba d'acqua, del poggio, che è esondato, ha inghiottito due persone sulle alture, una è stata salvata, una invece appunto questo dottore che è disperso. Ma poi c'è la vicenda non solo in Liguria, anche nel Modenese. In Liguria certo questa vicenda del treno sospeso stava per franare con 200 passeggeri che hanno visto davvero gli incubi come nei film peggiori, di dover cadere nel mare con conseguenze che vi lascio immaginare, su una scogliera là sotto, da una scogliera a finire in mare là sotto. I pendolari liguri: incubo, frane, meno treni e a passo di lumaca. Già nella riviera ligure vanno abbastanza a passo di lumaca, ora sarà ancora peggio. Il traffico a singhiozzo, a Levante 4 convogli ogni 60 minuti, racconta il Secolo XIX. Certamente in questo resoconto c'è anche l'invito, in qualche modo, se proprio non è indispensabile, non affidatevi ai treni in Liguria in questi giorni, e così neanche agli spostamenti già in autostrada sono difficoltosi, ma i treni in Liguria in questo momento sono davvero, se possibile, da evitare. Certo, come fanno i pendolari, come fanno le persone che devono andare a lavorare a spostarsi, questo è chiaramente un tema che c'è. C'è una vicenda poi di cronaca terribile che riguarda una faida di mafia e l'uccisione di tre persone, tra cui anche un bambino di 3 anni, ucciso e bruciato con il nonno affidatario e la compagna di lui. Questo perché dà lo spunto a molti giornali di raccontare e di smitizzare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, quel mito davvero distorto della mafia che non uccide, non tocca i bambini. Come scrive Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, pagina 18, il falso mito dei deboli risparmiati, come quando Giovanni Brusca ai suoi aiutanti disse liberatevi del cagnolino e quelli sciolsero nell'acido Giuseppe Di Matteo, bambino che il boia di Cosa Nostra aveva visto crescere ma aveva la colpa di essere il figlio di un pentito. Scrive Buccini, opportuno ricordarla questa storia ogni volta che si parla di malacarne, mafiosi e vittime innocenti, perché i macellai che amano definirsi uomini d'onore non hanno mai vissuto nessun codice d'onore, neppure verso bimbi e mamme, mai. Il boss Michele Navarra assassinò in ospedale un 13enne testimone dell'omicidio Rizzotto, eravamo appena nel 1948. Sicché è umanamente condivisibile il grido di sdegno del procuratore di Castrovilla di Franco Giacomo Antonio di fronte all'ultimo orrore scoperto tra i boschi del Cosentino a Cassano allo Ionio, un piccino di 3 anni, Nicola, ammazzato e bruciato in macchina insieme al nonno Salvatore, una vendetta andranghetista, regolamento di poco conti, poco cambia. Ha detto il procuratore: come si fa una cosa simile, qualcosa di inaudito, si è superato ogni limite. Ha detto giustamente: Ma la verità, come lui stesso sa benissimo, è che il limite non c'è mai stato. Il mito di una mafia un tempo rispettosa dei più deboli, di un'andrangheta custode di valori familiari, di una camorra romanticamente neomelodica, è una balla contraddetta dallo Spoon River delle piccole vittime massacrate negli anni. Anche Repubblica, con Attilio Bolzoni, fa lo stesso genere di commento: torturati e sciolti nell'acido quando la ferocia dei boss non risparmia i più indifesi. Riina, ricorda Bolzoni, diceva: ne muoiono tanti, non è un problema. Quindi questo terribile fatto di cronaca viene giustamente trattato sui giornali. Due notizie veloci di titoli prima di arrivare alla conclusione. Il primo: Obama assolve la marijuana. Questo è un titolo che c'è sulla Stampa, ma che chiaramente è una lunga intervista al New Yorker. Obama ha detto: la marijuana non è più pericolosa dell'alcol. Barack Obama, ma ovviamente ha aggiunto: alle mie figlie dico che è una cattiva idea. E poi su Repubblica, l'ex capo delle guardie svizzere, un'intervista in realtà rilasciata al settimanale di Basilea, Schweiz am Sonntag. L'ex capo Elmar Meder conferma: esiste una lobby gay in Vaticano, è potentissima, agisce come una società segreta e mina la sicurezza del Papa. Questo è l'ex capo delle guardie svizzere, intervistato da un settimanale svizzero, per l'appunto. Siamo al momento conclusivo. Ah beh no, prima devo leggere la Gazzetta. Seedorf balla con Balo, Rigorelli 1-0 e via. Siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi vince il Corriere della Sera con tre quarti di pagina. Pagina 23, ristoranti e camere senza vista. Londra scopre la vita sotterranea. Tre quarti di pagina per i nuovi concerti nei tunnel, le cene negli ex depositi del carbone, le gallerie sotto la stazione Waterloo ospitano un festival annuale di musica. Ma chi se ne frega? Tre quarti di pagina su questo, sul Corriere della Sera. Ma insomma, la carta costa, ricordatevelo, giornale radio. 24 mattino. Sono le 8:18 minuti, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, come sapete, il governo italiano ha comunicato nei giorni scorsi che il porto di Gioia Tauro in Calabria è stato scelto per il passaggio temporaneo del carico di alcune navi danesi, norvegesi, una nave americana che trasportano l'arsenale chimico sequestrato dal regime di Assad in Siria e che dovrà essere distrutto. Ovviamente questa scelta ha subito messo in mobilitazione le comunità dell'area e ne vogliamo parlare con il governatore, il presidente della regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, che è con noi. Buongiorno presidente. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Senta, lei ha immediatamente parlato di scelta da guerra civile, sono parole che conferma? Ma guardi, era soltanto un modo per dimostrare al governo che questa era stata una scelta inopportuna, soprattutto in una terra dove i focolai fermenti dettati dal tema dell'emergenza occupazione, le tante difficoltà ovviamente comportano una serie di provocazioni che potrebbero portare veramente a situazioni di piazza, a scontri di piazza e a situazioni certamente poco edificanti. Ecco perché quell'uscita e quel messaggio così forte del governo nazionale, che ha fatto un gravissimo errore a non interpellare ovviamente le istituzioni locali per dare serenità, per offrire certezze, quello che domani mattina sicuramente alla presidenza del Consiglio otterremo. Perché nel senso voi vi incontrerete, però presidente, sai che poi si muore di localismi in Italia, no? Se si deve interpellare ogni volta le comunità locali, cioè che cosa teme lei dal passaggio di navi in un porto che è considerato sicuro per fare questo? Ma da quello che si legge al momento non abbiamo elementi, diciamo, di valutazione, ecco perché abbiamo chiesto anche la presenza di esperti internazionali che possano chiarire a me e ai sindaci la possibilità, insomma, di questo trasbordo che avvenga in totale sicurezza. E chiaramente poi ci sono anche i messaggi che arrivano dall'esterno. Quando il collega Cappellacci dalla Sardegna dice ci siamo tolti un problema dando un significato forte in termini politici, anche se magari lui si appresta ad andare alle elezioni, è chiaro che vuol dire abbiamo mandato un altro territorio che è quello che noi non abbiamo voluto, quindi i messaggi poi si incrociano e diventano anche inquietanti per le comunità. Ah, ma io quello che non ho capito, cioè, che cosa temete, nel senso, temete che il trasbordo non sia sicuro, perché voglio dire, sono materiali che vengono trasportati per essere distrutti. Teniamo la pericolosità di questo contenuto, insomma, in questi contenitori, perché è chiaro che grandi rischi non dovrebbero esserci, però vogliamo sentirlo dalla viva voce di coloro che hanno esperienza, che possono supportarci e riferirci in maniera molto chiara quali sono i rischi a cui può andare incontro la popolazione, in modo che noi possiamo tranquillizzare il cittadino, perché è chiaro che in quei giorni si è sparso un grandissimo panico e la gente era preoccupata, e come sempre poi emerge il fatto che la Calabria diventa la Cenerentola, è quella che dove ognuno poi mette in campo tutto ciò che diventa inopportuno per gli altri territori. Presidente Scopelliti, mi dica cosa chiederete. Cioè, intanto partiamo da un dato di fatto. Voi sperate di far recedere da questa decisione il governo oppure la considerate? Noi chiediamo con grande senso di responsabilità, e credo che anche questo sia il messaggio dei sindaci, con qualcuno di loro ho parlato in queste ore. E il nostro messaggio è questo: vogliamo la certezza che tutto ciò avvenga in totale sicurezza, i rischi che può correre nei casi estremi la popolazione e tutto ciò che magari è come avviene nei tempi e così via. Dopodiché noi abbiamo chiesto, lo chiederemo al governo, perché da almeno 6 mesi esiste già depositata nelle commissioni parlamentari la proposta approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Calabria dell'istituzione della zona economica speciale, la famosa ZES, a Gioia Tauro. Allora, siccome oggi torna la ribalta a Gioia Tauro, noi sappiamo che Gioia Tauro è il porto più importante del Mediterraneo, che è un porto strategico, non lo è mai stato per i governi nazionali, che lo hanno sempre sbeffeggiato e ridicolizzato in tante circostanze, basta guardare 10 anni fa cosa accadeva, venivano favoriti e stimolati i porti del nord del paese e mortificata Gioia Tauro. Oggi la prima zona economica speciale può nascere in Italia, può nascere a Gioia Tauro. Ma Presidente Scopelliti, me la faccia mettere così, chiedete in cambio dei soldi, delle... No, noi chiediamo soltanto che venga istituita la zona economica speciale, che diventi il punto importante in cui il governo, una volta deliberato, porti questa istanza in sede europea per avere l'ok a far nascere la zona economica speciale. Non sono soldi, sono soltanto opportunità per il futuro di Gioia Tauro. Significa che il retroporto di Gioia Tauro può diventare una zona economicamente vantaggiosa per le imprese e far nascere qui veramente una grande area industriale in cui finalmente si apre una prospettiva seria in termini di sviluppo, di occupazione e quindi di futuro per la nostra terra. Invece la speranza o l'ipotesi che si cambi porto, questo neanche lei la coltiva più, insomma, mi sembra di parte che voglia capire che tutto sia in sicurezza, ma non mette più in dubbio che la scelta sia stata fatta. Noi abbiamo ancora margini per opporci a questa scelta, non c'è dubbio. Non rispettare le autonomie locali, non rispettare il parere della regione significa veramente andare a un conflitto istituzionale che credo non sia neanche corretto né doveroso. Sì. Vorrei ricordare a lei e ai radioascoltatori che il governo Letta è ancora in piedi perché i senatori calabresi sono stati i principali artefici della tenuta del governo, quindi meritiamo più che rispetto da parte dei vertici dell'esecutivo nazionale, ma al di là di questo credo che ci siano i motivi fondati per poter dire che se Gioia Tauro è il porto importante, che dimostra di avere grande sicurezza, che fa circa 3 milioni di TEUs e anche più nel 2013 ha fatto come trasporto, che facciano la zona economica, che qui diventi veramente un centro che possa sviluppare un risultato importante. Siccome siamo la prima regione, scusi, che lo ha chiesto, la Sardegna e altre regioni erano in itinere la loro posizione della zona economico speciale, meritiamo sicuramente l'attenzione questa massima. E dire che Lupi, il ministro Lupi è del suo partito, no? Centrodestra, non se l'aspettava da Lupi una scelta? Ma infatti, guardi, io con Lupi ci ho parlato anche a lungo, perché ha dimostrato sensibilità anche su altri versanti, il ministro Lupi, avendo anche conoscenza del rispetto, insomma, avendo fatto l'amministratore, sa molto bene il rispetto in termini di ruolo. L'ha tranquillizzata Lupi, l'ha tranquillizzata un po'. Sì, mi ha tranquillizzato, però ovviamente non doveva essere Lupi a interpellare il presidente della regione, perché lui ha soltanto individuato uno dei porti dicendo questi sono i porti che possono garantire questo trasbordo. Forse altri, diciamo così, con i suoi colleghi dovevano procedere all'idea di consultare gli enti, sì, per tranquillizzare tutti. Comunque, lei si sente, Presidente Scopellite, Presidente di una regione importante, a dire anche ai sindaci: state un po' calmi, adesso parliamo con, vedremo le rassicurazioni, ma insomma queste frasi che sono state dette a caldo, magari si può fare una cosa del genere, si può fare in totale sicurezza, siamo in un paese civile e basta, insomma, abbassate un po' i toni, no? Sì, sì, ma questo è anche, credo, l'orientamento di una parte dei sindaci del territorio, sicuramente, che, ripeto, io ho avuto modo, con cui ho avuto modo di confrontarmi, e che hanno dato piena e totale disponibilità ad ascoltare e a decidere in totale serenità. È chiaro che ci sono le strumentalizzazioni di quei partiti che vogliono fomentare il territorio, le strumentazioni delle associazioni che a priori sono contrarie a qualsiasi soluzione, diciamo così, che investa il territorio. Noi che abbiamo il ruolo istituzionale dobbiamo portare con noi la grande responsabilità del senso delle istituzioni, e soprattutto ascoltare e decidere, diciamo così, dando anche le motivazioni di una scelta, e quindi abbiamo la necessità, appunto, di poterci confrontare seriamente col Presidente Letta e capire e comprendere insieme qual è la scelta migliore, e a quel punto è chiaro che passa anche un messaggio. Le armi, il disarmo, questa parte così storica e importante, si realizza anche al porto di Gioia Tauro, anche un po' per questi aspetti. Lei lo mette, diciamo, sul piano della trattativa. Prima di tutto, insomma. Chiaro. Presidente, mi approfitto della sua presenza per due commenti. La prima è su questa terribile vicenda di cronaca nera avvenuta ieri alla vista di questo bambino, anche di 3 anni, ucciso in una situazione, credo, di 'Ndrangheta. Insomma, non spettano a giudicare, ma insomma è pieno di commenti oggi sui giornali di questo falso mito della mafia che risparmia i bambini. Ne si è avuta conferma anche ieri nel Cosentino. Lei, da Presidente della Regione Calabria, quando ha visto questa notizia, come ha reagito? Ma rimane inorridito, perché una ferocia così è chiaro che non merita rispetto né considerazione né possibilità, insomma, di replica, nel senso non c'è nessuna motivazione che può dire beh, forse un attentato, al di là del fatto che quando si toglie una vita, comunque è pur sempre una vita. Io spero che la risposta sia in maniera ugualmente dura, forte, da parte dello Stato, e invito gli organi preposti a incidere profondamente affinché si faccia luce, perché chi è il responsabile deve pagare restando nelle patrie galere per i prossimi 30 anni almeno. E l'altra battuta invece riguarda un articolo che avrà letto anche lei del Corriere della Sera di Gianantonio Stella la scorsa settimana, che si poneva questa domanda: ma perché il bollettino della Regione Calabria è ancora stampato su carta nell'era della digitalizzazione, nell'era della comunicazione? E si poneva questa domanda, non è che è perché la tipografia è del titolare, il titolare della tipografia è il sindaco di Catanzaro, Abramo, che è anche suo collega di partito? Guardi, le dico due cose. Sicuramente non è l'ultima che dice, anche perché chi è calabrese conosce, insomma, i rapporti interni, e quindi sa anche molto bene le situazioni che ci sono all'interno dei rapporti dell'azienda stessa e con l'azienda stessa. E l'abbiamo risposto, non so se c'è stata la replica, è stata pubblicata la replica da parte del nostro direttore generale, che noi siamo la regione che ha avviato le procedure, abbiamo aggiudicato la gara a settembre o ottobre, e dal 1 febbraio la ditta che si è aggiudicata partirà a costo zero la procedura. Quindi significa che, come ha scritto il mio direttore generale, bisognerà andare nelle regioni del nord, in altre regioni del paese, a dire perché spendere i soldi mentre la regione lo fa gratis. Ma perché adesso, cioè perché per il momento è ancora su carta? Perché la gara è stata avviata, la procedura, e è stata inviata alla stazione unica appaltante la richiesta di procedura. La stazione unica appaltante ha rimandato al dipartimento competente, dicendo che non era le condizioni di fare la gara, perché nel frattempo aveva delle gare molto importanti da portare avanti, e quindi poi sono state avviate le procedure, e il tutto si è concretizzato a settembre e ottobre. Quindi da febbraio sarà digitalizzato. Dal 1 febbraio avrà la possibilità di apprendere via ovviamente telematica, diciamo. Telematica, e invece questa coincidenza, insomma, Stella la poneva come una possibile coincidenza, che la tipografia fosse di proprietà del sindaco di Catanzaro, nonché suo collega di partito? No, non siamo colleghi di partito, no. Te lo ribadisco. No, e poi tra l'altro la tipografia Abramo, stranamente, le posso dire che negli ultimi forse 20 anni almeno si è giudicata sempre le gare dei bollettini della regione, quindi come vede non c'è nessuna coincidenza e nessun favoritismo in questa direzione. Perché dice stranamente, cioè se le giudicate? Dico stranamente nel senso che essendo un percorso ventennale almeno dice non è colpa mia, non c'è una coincidenza in questa alla sua parte. Presenza va bene, presidente, la ringrazio per essere stato con noi, grazie, lei, grazie. Giuseppe Scopelliti, presidente della regione Calabria, staremo a vedere anche questa vicenda di Gioia Tauro come andrà a finire. Mentre dopo la pubblicità, cari ascoltatori, noi ci concentriamo su un appuntamento annuale puntuale con scadenza inevitabile che avviene di questi tempi. Non è il canone della RAI, non sono le tasse, ma ogni anno di questi tempi, questa volta è stata nascosta un po' più nelle pieghe del decreto mille proroghe. C'è un emendamento firmato da qualcuno che prevede casualmente la stessa cosa, e cioè fare una sanatoria delle multe milionarie che i partiti politici si beccano ogni anno o ogni due anni o ogni tre anni quando si va a votare per le affissioni abusive dei manifesti. Lo fanno sempre, danno la colpa a volte alle concessionarie che appendono i manifesti per loro. Insomma, in questo dubbio ogni anno arrivano le multe dei comuni e ogni anno arriva immancabile la sanatoria. La sanatoria, con magari 1000 euro a provincia si pagano e si sanano multe che, se dovessero essere pagate, sarebbero multe milionarie. Anche quest'anno è arrivata, ne parleremo tra poco con l'autrice di questo emendamento, una senatrice della Lega Nord, e con il senatore Vito Crimi del Movimento 5 Stelle, che ha denunciato questa vicenda. Tra poco. 24 mattino. Siamo qui alle 8:36 minuti. Allora, cari ascoltatori, vi leggo questo emendamento. Se non capite nulla, state tranquilli. 9.49 di modifica al disegno di legge numero 1214. Il comma è questo. Dopo il comma 14 inserire il seguente 14 bis all'articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2008 numero 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 numero 14 sono apportate le seguenti modifiche. A. Al comma 1 le parole fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sostituite dalle seguenti fino al 29 febbraio 2015. B. Al comma 2 le parole entro il 30 settembre 2009 sono sostituite dalle parole entro il 30 settembre 2015 e le parole 31 maggio 2010 sono sostituite da 31 maggio 2015. Messo così, dice, e che è sta roba? È l'emendamento che ogni anno viene presentato per la sanatoria dei manifesti abusivi durante le elezioni. I partiti li fanno sempre, a volte sono le ditte appaltanti che mettono abusivamente fuori dagli spazi consentiti, i comuni danno multe milionarie e ogni anno la politica si sana queste multe. Autrice di questo emendamento la senatrice Patrizia Bisinella della Lega, insieme alla collega Comaroli, sempre della Lega. Senatrice Bisinella, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie intanto per metterci la faccia, perché sa che questi emendamenti sono tra i più, come dire, avversi ai cittadini. Volentieri per spiegare. Merito, qual è la questione. Bene, va bene, mi faccia salutare prima anche il senatore Vito Crimi del Movimento 5 Stelle, che ha denunciato questo tentativo di sanatoria. Buongiorno senatore. Buongiorno. Allora, senatrice Bisinella, che c'è da spiegare? È una sanatoria bella e buona questa, con parole incomprensibili? Beh, tecnicamente, ed è anche il motivo per cui l'ha letto, insomma è poco comprensibile detto così l'emendamento, è perché è inserito in un decreto legge di proroga di termini di disposizioni normative e quindi va, tecnicamente presentato proprio come differimento di termini. Sì, diciamo modifica delle date, ecco, diciamo così. Ed è il motivo per cui gli ascoltatori e i cittadini, detto così, non possono comprendere, perché se no non verrebbe accettato. È proprio il provvedimento base che richiede che sia spostato in un termine, altrimenti non sarebbe ammissibile. Dopodiché, e saluto il collega Vito Crimi, che è componente come me della Commissione Affari Costituzionali. Io ho presentato assieme al mio gruppo questo emendamento per porre una questione. Innanzitutto non ne facciamo certamente una battaglia se passasse, non passasse, eccetera, ma ci interessa finalmente arrivare al dunque di una normativa che così com'è non va bene. Lei dice bene, ogni anno si deve mettere mano al problema delle sanzioni, perché parliamo delle sanzioni, sì, che vengono combinate dai comuni. Esattamente, per contrastare il fenomeno della fissione abusiva, manifesti politici, mezzi similari. Si presenta in ogni campagna elettorale il problema, e lo conosciamo bene e siamo anche noi assolutamente convinti che va contrastato. Questo lo voglio mettere subito in chiaro. Io dico che quando vi sono affissioni fatte in maniera illegittima, la sanzione è giusta, ci mancherebbe, e va pagata. Quello che noi vogliamo porre, e abbiamo presentato l'emendamento in quel modo perché almeno se ne parli in commissione, sì, poi avrà la sorte che avrà, è che però la normativa fa pagare i partiti. E fa pagare i partiti, ma in maniera anche non corretta. Le spiego perché. Io sono anche amministratrice locale, quindi vivo e ho sempre vissuto anche in presa diretta nel mio comune questo fenomeno, che ripeto va controllato perché distrugge l'ambiente e crea problemi. Ma in molti comuni i posti, i luoghi dove devono essere fatte le affissioni sono spesso messe in ritardo. Lei sa, gli ascoltatori sapranno che esistono dei termini, no, per cui vanno individuati i posti dove vanno, ecco, aspetti, mi faccia finire il ragionamento. Il problema qual è? Che spesso vengono messi in ritardo e nel momento in cui, stando dentro i tempi di una campagna elettorale, un movimento politico, un partito che commissiona l'incarico a una ditta terza e questa inizia il giro per i vari territori per le affissioni, si trovano spesso questi terzi ad affiggere laddove ancora non ci sono. Per il ritardo degli uffici elettorali dei comuni, i numeri poi dopo quando vengono messi i numeri, allora, risultano noi abusivi. Cosa diciamo? Questo è stato anche documentato in molti comuni da foto eccetera, che non vi era in tempo una identificazione possibile. Allora noi diciamo, la colpa in questo caso non può essere attribuita al movimento politico, al partito. Ma a chi? Perché se la multa è motivata è giustamente da pagare, ci mancherebbe. Ma laddove non c'è colpa, allora noi diciamo, in questo caso le multe sono state anche cospicue, perché se per il singolo episodio è basta, immaginiamoci l'ammontare complessivo laddove possa succedere in vari territori. Sì, però senatrice Bisinella, mi scusi, perché così interloquiamo e coinvolgiamo anche i Crimi. Questo io posso capire tutto questo tipo di ragionamento, però se voi volete cambiare la normativa, uno che vuole cambiare una normativa la cambi, ma non ho capito. Infatti, perché nel frattempo perché nel frattempo sanare le multe? Che da due legislature fa esistono delle proposte di legge proprio per cambiare. Va bene, ma perché nel frattempo si sanano le multe? Cioè almeno uno dice paghiamo tutto quello che c'è da pagare e poi cambiamo la normativa. Questo sarebbe... L'emendamento che noi abbiamo presentato prevede la proroga al 2015 per sanare delle multe che riteniamo essere state affitte, combinate in maniera ingiusta. Ah, ho capito. Ma non è questo il fondo del problema. No, lei dice il fondo del problema è cambiare... Ma certo, lei dice il fondo del problema è aprire la questione e cambiare la normativa. Così com'è non va bene. Siccome però io parole, dico cambiamo la normativa, ma nel frattempo saniamo, ma nel frattempo paghiamole queste multe, non saniamole. Ma laddove sono giuste, sì, però ci devono essere tutti gli accertamenti del caso. Le faccio anche notare che le formazioni più piccole, le liste che si presentano nei vari comuni, non sono in grado di affrontare queste spese. Secondo me è una maniera anche per impedire la libera partecipazione alle competizioni elettorali. Ma vabbè, su questo guardi. Guardi, aspetti, mi faccia coinvolgere un attimo anche Vito. Dico solo il discorso, giustamente lei dice la normativa va cambiata, il problema è che a parole tutti lo dicono ma e nessuno lo allora fa. Io con questo emendamento intendo porre il problema, poi ne ripeto. No, però scusi, lei intanto pone il problema, intanto pone un problema ma intanto sana una multa questo con questo tipo di emendamento. Però vorrei sentire il senatore Vito Crimi del Movimento 5. Beh, senatore, però per voi è facile, diciamo, non avete mai, credo, affisso un manifesto, non so, voi affiggete manifesti? Vai, allora, innanzitutto saluto anche la collega Bisinella. Allora, noi abbiamo affisso manifesti, altro che, ma guardi, le dico in maniera molto chiara, io vengo da Brescia, quindi mi sono occupato in particolare della provincia di Brescia. Noi abbiamo affisso i manifesti solo quando sono usciti i numeri di assegnazione e gli spazi. e non li abbiamo affissi prima, non li abbiamo affissi sui muri, non li abbiamo affissi da nessuna parte. Poi la situazione di Roma, Milano, Palermo è ben nota, ci sono degli strati di manifesti che si sovrappongono uno sull'altro. È proprio la tutela delle piccole liste che altrimenti sarebbero sovrastate da chi ha risorse economiche per mettere in mezzo manifesti in quantità industriali, che vengono, si fa la tutela lasciando degli spazi ben determinati. E noi abbiamo sempre visto che determinate liste hanno riempito tutti gli spazi, coprendo anche quelli delle piccole liste che con fatica hanno stampato dei manifesti. Quindi l'affissione abusiva va assolutamente condannata, ma in tutti i sensi. Guardi, le dico personalmente, a Brescia se ci sono 200 spazi elettorali, noi stampiamo 200 manifesti, al più 400 per sostituire metà campagna elettorale, ma non ne stampiamo 10.000, perché se ne stampiamo 10.000 presupponiamo di appendere 10.000 posti. Anche questo è un aspetto che va considerato. Parliamo di centinaia di milioni di euro di multe, che sarebbero oggi linfa vitale per i comuni, centinaia di milioni di euro di multe. E aggiungo un altro fatto, non solo linfa vitale per i comuni spendono per rimuovere i cartelli abusivi, spendono per nascondere, per coprire con le scritte affissione abusiva, spendono in squadre, in personali, in risorse, in strumenti. Quindi i comuni hanno anche una... Ma lei come la vede quindi questa idea? Cioè una sanatoria, guardi, bella e buona? Perché la senatrice Bisinella dice... Sì, guardi, è dal 2008, ogni anno, questo ogni decreto, anno, poi so. C'erano anche prima. 2008 c'è questo decreto, ogni anno è alternativo. Una volta c'è il PD, una volta il PDL, una volta la Lega, poi il PD, il PDL. Ogni anno l'emendamento viene presentato da qualcuno diverso, forse per evitare che sia... Sì, a volte qualche anno non si è riusciti neanche a scoprire i firmatari, perché a volte poi... Invece quest'anno almeno la senatrice Bisinella è qui a dire, sono qui a spiegarvi, perché insieme alla collega Comaroli... Posso dirvi un aneddoto che mi ha lasciato anche molto... un aneddoto... Quando c'è stata la campagna referendaria per il nucleare... Io insieme ad altri, al comitato locale, stavamo organizzando l'affissione dei manifesti nucleare e acqua, quindi stavamo parlando di una campagna anche importante per noi. Quando io ho detto, ma non li possiamo ancora appendere i manifesti ai signori che erano nel comitato, perché ancora non ci sono i numeri, mi hanno detto, ma no, non vi preoccupate, appendetele dove volete, tanto poi c'è la sanatoria. E questo l'hanno detto quelli di sinistra, attenzione, perché è bipartisan la cosa. E li ha appesi, dica Vito Crimi, ha commesso un reato, Vito Crimi. Noi non li abbiamo appesi, ci siamo rifiutati di farlo. Abbiamo detto, i nostri spazi, perché ogni associazione, comitato aveva un proprio spazio, no? Si spazi di fare. Facciamo quando avremo lo spazio. Corretti. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico. È interessante comunque questa discussione. Riprendiamo tra un attimo. Allora, eccoci qua. Ogni anno la sanatoria per le affissioni abusive. Allora, senatrice Bisinella della Lega, capisce il ragionamento che pone perplessità è questo. Tutti siamo d'accordo a vedere una nuova normativa, non si capisce perché nel frattempo queste multe che lei dice sono un po' poco chiare vanno sanate. Ogni anno è così, vengono sanate. Allora, ogni anno. Più che la sanatoria, noi abbiamo proposto una dilazione dei tempi di pagamento delle sanzioni, perché ripeto, ci sono casi per anche piccole formazioni politiche che non sono in grado di ottemperare. Ma dilazione del pagamento o dilazione dei tempi di sanatoria? Perché sono dei tempi, di attempi. Allora, io condivido le considerazioni nel merito che fa Vito Crimi, il mio collega, e anzi sottoscrivo in pieno il ragionamento che lui fa, però può capitare anche al Movimento 5 Stelle di trovarsi in situazioni in cui trova gli spazi già occupati magari da propaganda pubblicitaria di altro tipo, i tempi già oltremodo superati di norma per poter fare la campagna elettorale. Sì. E dare a una ditta, perché in molti territori noi ci arrangiamo, per esempio come il Movimento 5 Stelle, siamo un movimento povero, e affiggiamo personalmente i nostri manifesti, stiamo sempre attenti a dove... Cioè, può capitare, dice, di dover infrangere la legge perché succede? No, non dico questo, non di infrangere la legge, ma che ci sia un terzo che non è così attento, oppure appunto un ufficio elettorale di un comune che nei tempi non indica il luogo esatto sì, di pubblicazione. Ma mi scusi, se una ditta, se una, scusi, se una ditta terza, allora, se voi della Lega o qualsiasi partito ha affidato a una ditta terza di affiggere i manifesti e questa ditta terza li mette nelle cose abusive, voi pagate la multa e poi vi rivalete, non pagherete questa ditta terza. Non funziona così, innanzitutto perché se non la pagherete fatta, questa ditta, le dite scusi. No. Allora, avete fatto un lavoro fatto male, noi non vi paghiamo. Mi scusi, se la fissione fosse fatta illegalmente, abusivamente, tout court, allora la multa è giusta da pagare, noi non ci siamo sottratti nei casi in cui è successo, purtroppo qualche volta è successo a tutte le formazioni politiche e su questo nulla da discutere, ripeto, se la multa è motivata giustamente va pagata, il fenomeno deve essere contrastato. Quello che io dico è laddove vi siano casi documentati da foto in cui purtroppo la cosa è avvenuta non per colpa del movimento committente. Sì, allora, però non credo che una sanatoria possa essere... Lei deve tener conto anche, ripeto, una formazione politica anche piccola non è in grado... No, ma certo, però non credo che, Vito Crimi, non credo che si possa fare una sanatoria a, diciamo, a casi limitati. Per ora si fa una sanatoria a tutti e poi al limite. Allora, due cose. A me è capitato una volta di mettere un cartello nel posto sbagliato. Ah, lo ammetto. Per un errore del comune, del comune, perché avevano messo la I e la L, la I maiuscola e la L minuscola nelle due tipologie di cartelli e chiaramente I maiuscola e L minuscola sono uguali. Quando io ho fatto le foto, come appunto diceva la senatrice Bisinella, e sono andato al comune a contestare il rilievo che mi avessero fatto, immediatamente si sono accorti dell'errore e della possibilità di confusione che poteva causare una cosa e ovviamente non hanno elevato la multa. Quindi i singoli casi vanno affrontati come singoli casi, quando sono documentati la multa non viene elevata, c'è il prefetto, ci sono tutti gli organi per poter ricorrere e ogni singola realtà può farlo. E vorrei correggere però la senatrice Bisinella, non si tratta di una dilazione del pagamento delle multe, attenzione, se era questa la sua intenzione non è questa la modalità, faccia in altro modo, perché questa è la dilazione dei termini per poter aderire alla sanatoria. Della sanatoria. Cioè, che poi vogliamo parlare, Crimi, vogliamo data. Spiegare se la sanatoria, esatto, vogliamo spiegare cosa vuol dire, vuol dire che con 1.000 euro a provincia, credo, 1.000 euro comune, qualora si tratta di più sanzioni nella provincia, i 1.000 euro vanno dati al capoluogo della provincia, 1.000 euro sì, per tutta la provincia, il quale provvederà a distribuirli proporzionalmente a tutti i comuni interessati. Cioè, mettiamo il caso che il partito comuni... No, ma è chiaro, immagino che il partito X abbia una multa di 1.000.000 accumulate nella provincia di Milano per tutti i seri comuni, sana tutto con 1.000 euro. Sì, la stima a Milano parla di 6 milioni di euro. 6 milioni di euro a Milano e provincia? Sì, stime di Milano città. Milano città, ecco, per esempio Milano città, e quindi lì si sa il cioè 6 milioni tutti i partiti, però mettiamo tutti che un partito ha 500.000 euro, 600.000 euro, sana con 1.000 euro, vabbè, sì, un bel affare, diciamo. Certo, e qualunque cittadino potrebbe a questo punto alzare la testa e dire no, questa norma non è corretta, per cui chiedo una sanatoria e le modifico. Infatti ci sono cittadini che chiedono sanatoria per le loro multe, ma credo che non si possa fare. La cosa che mi fa arrabbiare è che comunque il legislatore non deve assolutamente mai intervenire con una legislazione che possa favorire se stesso. Questo è in un altro tipologia di settore, l'amministrazione pubblica si chiama peculato, uso o abuso d'usanza, concussione, credo, per la precisione, concussione, reato specifico. Sì, peculato. Cioè, quando utilizzi la tua funzione per averne un beneficio personale. Sì, peculato è un'altra cosa, l'utilizzo dei suoi... peculato è l'utilizzo dei benefici. Faccia che è pure avvocato lei, Crimi, non mi... No, non sono avvocato. No, non è avvocato, però. Metto le mani avanti, ecco, di concussione. Allora, andremo a vedere come finisce questa vicenda dell'emendamento. Ne approfitto solo, 30 secondi, Vito Crimi, visto che lei sta anche in quella commissione, adesso non ricordo, quella che ha deciso anche la decadenza di Berlusconi, chiedo a lei un giudizio politico sull'incontro Renzi-Berlusconi. Secondo lei è opportuno che Renzi abbia incontrato Berlusconi? Ma secondo lei si sono incontrati solo adesso? Era un incontro casuale, fortuito, un incontro organizzato, o c'è un rapporto costante ormai consolidato nel tempo tra Berlusconi il PD e ora segue la strada Berlusconi Renzi. Cioè, vabbè, si saranno... Non mi sembra niente di trascendentale, ecco, questo incontro è semplicemente nella scia di quello di era un rapporto già ben consolidato da parecchi anni tra i due partiti. Quindi, cioè, tra i due partiti, Renzi e Berlusconi si sentono, secondo lei, da sempre, si sentono. Ma si figuri, ma lo sa anche il Partito Democratico con Berlusconi. Sono stati al governo per tanti anni. Niente di nuovo sotto il sole. Va bene, ringrazio il senatore Vito Crimi del Movimento 5 Stelle, la senatrice Patrizia Bisinella della Lega Nord. Alla prossima, vedremo questo emendamento come va. Ci fermiamo, mi raccomando. Ah, stasera potete vedermi su 7 Gold. Torniamo con Funamboli alle 21.10. State con noi invece domani qui alle 6.30. A domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.